Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Cosa succede quando un brand storico cambia logo? Se c'è di mezzo una passione forte come quella calcistica, il finimondo. Parliamo del nuovo logo della Juventus. Lo abbiamo visto nei giorni scorsi su tutti i giornali, abbiamo visto anche le critiche e le ironie sui social. Noi allora abbiamo cercato chi quel logo lo ha creato. E a proposito di passione, ci ha incuriosito un indice che misura l'amore dei consumatori per le marche. Si chiama The Love Index e si basa sulle caratteristiche che le persone cercano nelle relazioni interpersonali e che applicano anche alle interazioni con i brand. Focus sui trend dedicato infine ai consumi reinventati, dalla libreria on the go alla portineria di quartiere fino alla specialista dell'ordine. Un'idea fantastica, quello che ho pensato subito. Il cambio del logo sta a significare proprio che è un brand talmente universale che può racchiudere veramente tanti aspetti, ecco, della nostra vita e non solo quella sportiva. Non so perché, ma da primo momento, da quando l'ho visto, quella J lì mi piace molto. Così Nedved e Buffon nel video di presentazione del nuovo logo della Juventus. Non tutti, tifosi e non, però sono d'accordo. L'operazione di marketing del club bianconero ha scatenato molte polemiche, sono piovute anche accuse di plagio e di tradimento della storia della società. Comunque la si pensi, il cambio del logo è una rivoluzione nel mondo del marketing sportivo e calcistico, in particolare la spia di un progetto che guarda a nuovi mercati e a nuovi target meno vicini oggi al mondo del calcio. Le critiche erano in conto, la gente col tempo capirà, ci ha detto Lidi Grimaldi di Interbrand, la società che ha ideato la nuova identità visiva e l'intero progetto di quello che in gergo si chiama rebranding. Ce l'aspettavamo perché è abbastanza normale, soprattutto in un mondo come quello del calcio, che le tifoserie si scatenino rispetto a un cambiamento di quello che evidentemente per una base di fan è molto più che un segno, è un emblema. C'è anche da dire che siamo rimasti molto felici di quanto questo segno sia stato accolto con estrema positività da un mondo più allargato e siamo abbastanza certi, anche sulla base di esperienze pregresse e in situazioni simili, che anche le persone che oggi sono più lontane e distanti si abitueranno a questo nuovo segno e quindi verrà meglio compreso e accettato. Un segno che, è stato detto in presentazione, rimanda alla celebre frase dell'avvocato Agnelli: mi emoziono ogni volta che vedo sui giornali una parola che inizia per J. Esatto, è ovviamente è evidentemente un segno che celebra la J, che in realtà porta con sé dei tratti che sono parte della tradizione, del DNA di questo club, che sono le strisce, che sono il bianco e il nero. Vengono a mancare tutta una serie di simbologie che sono tradizionalmente riconosciute nell'ambito dei logo delle squadre di calcio, che sono simboli di natura araldica. Però bisognerebbe interrogarsi sul senso di questo cambiamento, ovvero di creare un segno che possa parlare a nuovi target, su nuovi mercati, e evidentemente un segno più semplice aiuta, va esattamente in questa direzione. Quindi nuovi mercati, l'Asia in particolare, nuovi target, sì, come i millennials, esatto, il pubblico femminile, così. Esatto, certamente l'Asia e gli Stati Uniti sono dei mercati rilevanti, ma poi c'è il resto del mondo. Evidentemente i brand parlano con un linguaggio semplice che deve vivere in un mondo digitale e quindi deve essere facilmente riconoscibile pochissimi pixel, e tutto questo ha necessariamente sicuramente informato il cambiamento. Adottare un linguaggio che sia più facilmente comprensibile e rilevante anche, ovviamente non solo, anche per un pubblico internazionale. Ho sempre creduto nei numeri, nelle equazioni e nella logica che conduce al ragionamento. La mia ricerca mi ha spinto attraverso la fisica, la metafisica, l'illusione. È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui stasera solo grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni. Cercavamo una dichiarazione d'amore. Nella storia del cinema c'era l'imbarazzo della scelta, questa di A Beautiful Mind ci è sembrata perfetta per introdurre The Love Index, l'analisi sui brand più amati al mondo condotta da Accenture Interactive, un'indagine su più di 26.000 consumatori in Stati Uniti, Regno Unito e Brasile, che assimila le interazioni con i brand alle relazioni amorose. Oggetto del desiderio sul podio dei brand più amati dunque ci sono Apple, Microsoft e Netflix, ma non mancano le sorprese. Ashley Benigno. Con il passare del tempo abbiamo sempre delle unioni emotive anche, no? Con i brand, per cui non è solo questione di persone, di cose che ci piacciono, ma ci sono certi marchi che per delle ragioni hanno una risonanza più forte, le portiamo, se vuoi, nel nostro cuore, no? Quello che abbiamo trovato da questa ricerca è che essenzialmente, diciamo, allora un modello, come ho detto, di love, di amore verso un brand, ha 5 dimensioni di questo tipo. Noi l'acronimo che gli abbiamo dato è FRESH, no? Fresco. Ed essenzialmente queste 5 dimensioni, una è intorno all'idea di fun, per cui di divertimento. Come può catturare una mia attenzione, come posso rendere un servizio simpatico, c'è un tema di rilevanza, per cui cos'è che è interessante per me, l'altra è l'engagement, per cui il coinvolgimento, se vogliamo, in un servizio e di come quello poi può dare un'identificazione sia ai miei bisogni, se vuoi anche ai miei desideri. Il penultimo di queste dimensioni, il social inteso come lo usiamo adesso, di strumenti digitali che possa essere Facebook o Twitter o quant'altro, ma anche il social, se vuoi, analogico, per cui del ruolo che hanno le persone che noi conosciamo nel modo in cui possiamo fare delle decisioni. E poi l'ultima è il helpful, per cui ciò che diventa utile o efficiente, che ti dà quella semplicità e velocità all'accedere a delle cose. Tra i brand più amati Apple, Microsoft e Netflix, poi a seguire Samsung, Sony, Google, Amazon, Fitbit e Facebook, quindi tutti i brand del digitale, però c'è anche Walmart, quindi non di digitale parliamo, ma di grande distribuzione, il brand del largo consumo, dei department store americani per eccellenza. Ecco, che cosa rivela questa presenza di Walmart? Ma rivela forse, se vuoi, anche elementi di affezione verso certe cose e di come poi certe realtà commerciali possono veramente integrarsi alla nostra vita. È vero che è interessante come unico brand analogico che ha resistito un po' all'interno di questa questa ricerca. Voi parlate di aspettative liquide dei consumatori, sì. In che senso? Le aspettative liquide, quello che abbiamo visto è c'è stato un cambio comportamentale in questi ultimi anni. Come abbiamo visto da questa ricerca, insomma, Netflix è emerso, almeno in questi 3 paesi, come il brand più amato. Per cui io potrei anche ritrovarmi a fare una prenotazione su Airbnb o fare un'operazione bancaria sulla My App bancaria, però poi potrebbe venirmi in mente, aspetta un attimo perché non mi stanno dando un servizio che è più simile a quello che posso trovare su Netflix. Il liquido arriva da questo, per cui diciamo, se prima industrie guardavano direttamente al loro mondo, adesso devono guardare a tutto un mondo digitale. Nuovi prodotti, servizi e professioni e tempo di consumi reinventati. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere. I consumatori moderni possono etichettare se stessi con questa formula. Io sono uguale ciò che ho e ciò che consumo. Eric Fromm. Focus sui trend. Dalla libreria On The Go fino alla portineria di quartiere e all'Uber dei piccoli. Mai come in questa fase di grande trasformazione per prodotti e servizi tra digitale e fisico, tra locale e globale, tra artigianale e in serie, i consumi si reinventano, fanno nascere nuove professioni. Lo dimostrano i casi che ha selezionato per noi Luisa Schiaro di Future Concept Lab. Ciao Luisa, bentrovata. Ciao Maria Luisa e un saluto a tutti quanti. Allora, il primo caso arriva dal mondo delle librerie, una bella storia di riscossa, possiamo dire così, per le piccole librerie di quartiere a rischio chiusura. Davvero, Maria Luisa, siamo a Milano e Luca Santini, un libraio che ha purtroppo ho dovuto chiudere la propria libreria, come succede effettivamente a tanti librai indipendenti, si è però reinventato una nuova professione e anche una modalità proprio di contatto con le persone. Infatti lui è partito dalla convinzione che chi legge e ama l'oggetto libro si nutre anche della relazione che si crea fra il libraio e il lettore. A questo punto ha preso la licenza per il commercio itinerante e, essendo un appassionato di bicicletta, ha creato questa attività di libraio a domicilio. Quindi con la sua bicicletta pedalata assistita propone e consegna a casa i libri, creando già proprio una rete di clienti ormai fedelissimi e addirittura un'alleanza virtuosa con alcune librerie che sostengono questo progetto. Un bellissimo caso che ha fatto scuola, tra l'altro non ci siamo messe d'accordo Luisa, ma è proprio il mio quartiere, io conosco Santini e conoscevo anche la sua libreria che frequentavo, quindi insomma una bella storia che mi è particolarmente vicina. Restiamo nella dimensione del quartiere, una dimensione che resta fondamentale, fortemente identitaria, anche e soprattutto nelle grandi città, lo dimostra del resto il successo delle social streets, le community di quartiere su Facebook, un'esperienza online che integra però anche quella fisica della relazione e passa da nuovi luoghi di incontro, di aggregazione, delle vere e proprie portinerie di quartiere. Vi racconterò infatti alcuni casi che sono proprio molto interessanti perché stimolano effettivamente questo senso di comunità però legato a un territorio specifico. Il primo caso è parigino, Lulu Dammarou, un chiosco aperto a Parigi nel Marais che ha proprio lo scopo di fungere da intermediario tra chi cerca un servizio e chi è in grado di offrirlo, mettendo in contatto appunto gli abitanti del quartiere, addirittura possibili vicini di casa o di via. E i servizi proposti sono i più diversi, da chi ha bisogno di aiuto per un trasloco, chi cerca una babysitter oppure un idraulico. La cosa interessante è che da un lato si viene incontro a una richiesta di un in qualche modo risparmio per questi servizi in una città molto cara come Parigi, e dall'altro chi offre questo servizio ha la possibilità di implementare un proprio guadagno magari già per un'altra attività lavorativa. Questa idea è venuta a Charles-Edouard Vincent, un ingegnere che lavorava per tanti anni in un'azienda che però poi ha deciso di proprio dall'osservazione di quello che accade nella realtà di lavorare proponendo un modello che in qualche modo si rifà chiaramente al passato e garantisce proprio per la presenza fisica sul territorio anche in qualche modo la fiducia rispetto a quello che poi le persone, quando le persone vengono messe in contatto. Questo è il caso francese che ha fatto scuola e ha già trovato declinazioni interessanti anche in Italia. Esattamente, altri due quartieri. Uno è ticinese con Porteria 14. Anche in questo caso l'obiettivo è quello di fornire aiuto per i piccoli grandi problemi quotidiani, in questo caso gratuitamente. All'interno di un bar preesistente tre ragazze hanno fondato fondato una portineria di quartiere che effettivamente di nuovo ha la funzione di mettere in contatto le persone alla ricerca di servizi appunto i più disparati, ma anche come punto di riferimento. Consegno le mie chiavi, deve arrivare un pacco, io non so dove poterlo ricevere, e quindi ecco, come dicevi prima, per questo quartiere ha funzionato molto bene il fatto che fosse già presente su Facebook una pagina di Social Street di questi appunto residenti San Gottardo, che in questo modo poi è come se avessero trovato una casa fisica di quello che già accadeva online. Secondo caso, come dicevamo, un altro quartiere sempre milanese, siamo in questo caso a Brera, è l'edicola 2.0, una edicola realmente esistente che offre, diciamo, libri piuttosto che giornali, quotidiani, magazine, tutto ciò che è possibile acquistare in una edicola, che si propone di nuovo come punto di riferimento per coloro che abitano nel quartiere, in questo caso anche addirittura con uno spazio esterno dove è possibile organizzare eventi, trovarsi anche soltanto per leggere un libro da lasciare poi che potrà essere ripreso da eventualmente qualcun altro perché lo sia già letto, poi offrendo anche in questo caso tutti quella serie di servizi domestici, diciamo tra virgolette, appunto idraulico eccetera eccetera, che magari difficilmente si trova in maniera così rapida o con fiducia rispetto a quelle che sono le proposte esistenti. Quindi da un bar portineria a un'edicola portineria, professioni vecchie reinventate ma anche professioni che nascono ex novo. E qui si fa invece riferimento al talento personale. In questo caso Daniela Dossi ha creato questa professione della professional organizer. È molto brava, è in grado di organizzare e gestire il guardaroba. A questo punto offre sul sito richiudeteli.it, è possibile contattarla, offre il suo, appunto, la sua capacità per venire nella vostra abitazione e porre fino a quello che probabilmente accade a tutte quante o a tutti quanti. Magari si apre la porta del nostro guardaroba e ci si rende conto magari anche di avere tanti capi superflui, oppure addirittura a volte non si trovano i capi che stiamo cercando perché magari sono stati posizionati in modo non ordinato. Lo step successivo che propone Daniela è lo swap party, realizza incontri tendenzialmente più tra donne in cui a costo zero, quindi una sorta proprio di baratto, ci si può liberare dei capi vecchi o quantomeno che non si desidera più utilizzare per prenderne altri da altre donne che fanno esattamente la stessa cosa. Beh, l'ordine del resto, l'eliminazione del superfluo, diciamo così, lo sappiamo, è uno dei mantra della contemporaneità, oggetto anche di best seller, insomma, che hanno avuto molta fortuna. Chiudiamo, Luisa, con un servizio che guarda alle esigenze delle mamme. È stato soprannominato l'Uber dei piccoli. Di che cosa si tratta? Sì, esattamente, si chiama Hope Skip Drive. Siamo a Los Angeles in questo caso, città gigantesca dove è molto complesso proprio organizzare degli spostamenti. Tre mamme si sono rese conto che avevano una grande difficoltà a gestire le agende sempre più ricche di impegni dei propri figli. Ecco che hanno realizzato questo servizio che è utilizzabile per bambini dai 7 ai 17 anni, quindi minorenni, di taxi di mamme certificate, nel senso che devono addirittura dimostrare di avere la sedina pulita, di avere una consuetudine di attività con i bambini, quindi essere in grado anche poi di relazionarsi positivamente con questi bambini, che sono a disposizione per portare i propri figli da, non so, ginnastica piuttosto che al catechismo eccetera. E grandissimo successo, al punto che stanno pensando di esportarla anche in altre aree degli Stati Uniti. Come dire, la trasformazione a modello di quella che è la consuetudine della solidarietà fra mamme, immagino, insomma, vissuta da molte delle nostre ascoltatrici, quindi mi aspetto che arrivi anche in Italia. Grazie. Esattamente. Grazie Luisa Schiaro, alla prossima. Alla prossima Maria Luisa. Il consumautore. Diamo subito il benvenuto al nostro ospite fisso, ci ha raggiunto in studio come sempre per la riflessione finale il sociologo Francesco Morace. Ciao Francesco, ben trovato. Grazie Maria Luisa e buonasera a tutti i radioascoltatori. Stasera, me lo hai anticipato, partiamo dal cinema. Partiamo dal cinema e partiamo da questa concomitanza di film, diciamo di Natale, anche se ormai, come sai, non sono più all'ordine del giorno, però film di buon successo nel periodo natalizio e che, guarda caso, sono tutti ispirati a storie vere. Ecco, io credo, ne abbiamo parlato anche altre volte, che questo grande ritorno della realtà, della verità che supera la fantasia, sia davvero un tema importante per capire meglio i consumatori. Parliamo ad esempio di Sally, che è la storia comunque del pilota che qualche tempo fa riuscì ad atterrare addirittura nell'Hudson. Parliamo di Florence, interpretato magistralmente da Meryl Streep, e che racconta di questa miliardaria appassionata di musica, ed è una storia vera, anche se il film è straordinario perché sembra davvero inventato, è una storia incredibile. Ma anche Lion, che è la storia di questo bambino che si perde a Calcutta, che viene adottato dai genitori australiani e che poi cerca i suoi genitori e le sue radici. Quindi tutte storie legate a grandi passioni e grandi sfide. Sfide e temi appunto molto contemporanei. In che misura oggi, Francesco, il cinema detta la linea, per così dire, in comunicazione, anticipando tematiche oppure cifre stilistiche? Io credo che ci sia un grande ritorno del cinema, che aveva, devo dire, un po' perso negli ultimi anni questa capacità di anticipare, no, i tempi e di definire dei nuovi valori su cui muoversi. Io trovo che questa nuova stagione, anche una nuova generazione di cineasti, stia invece riuscendo a portare Hollywood, o comunque in generale il cinema e il suo linguaggio, nuovamente a contatto con la realtà e ad esempio anche con le giovani generazioni, perché stiamo registrando per fortuna anche un ritorno nei cinema anche dei giovani, cosa che non era francamente immaginabile qualche anno fa. Qualche anno fa si diceva le serie TV ad esempio hanno superato il cinema in questo momento sta recuperando terreno in questo senso. Sì, c'è una sorta anche di incontro felice, perché i grandi registi, è vero che molto spesso girano le serie TV soprattutto negli Stati Uniti, che poi però diventano anche film, e c'è questo travaso virtuoso, direi, tra la creatività televisiva delle grandi serie e quella cinematografica. È bello poi ritrovare anche nella comunicazione commerciale ad esempio degli stili che abbiamo visto al cinema. Io amo citare Il favoloso mondo di Amélie, che a 15 anni di distanza ad esempio si ritrova ancora in alcuni spot, piuttosto che La grande bellezza, insomma, lo stile di Sorrentino. Sono stilemi che appunto si ritrovano anche poi nella comunicazione commerciale. Sì, e l'altra cosa da aggiungere è che è un mondo che per fortuna si sta anche allontanando da un'idea di divismo che ha fatto un po' il suo tempo. Non a caso, ad esempio, questi film che ho citato, al di là di Meryl Streep, ma sono film che hanno una capacità anche di riportare personaggi, protagonisti, attori che non sono i soliti. Ecco, allora credo che stia proprio cambiando l'immaginario del cinema e la sua capacità di entrare nella società. Grazie a Francesco Morace, grazie a Roberta Frisani in regia. Essere a Vere torna domenica prossima. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.